la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 17 di marzo sono le 16.34 primi e 15 secondi, il programma precedente ricomincia a slittare, quindi spariscono di nuovo i minuti della trasmissione, però vedremo di intervenire. Detto questo, grazie per ascoltarci, versione Oscar @radio24.it per chiedere temi, opinioni, ospiti. E andiamo subito al punto, va, decidete se chiamare l'800 24 0024 349 238 6666 per le vostre opinioni. Il tema è obbligato perché parliamo ovviamente della vicenda che ha portato all'arresto di Ercole Incalza, il RAS delle infrastrutture pubbliche italiane, e di altri tre arrestati con 51 indagati, e la procura di Firenze che, partendo da un'indagine sul passante ferroviario su opere pubbliche a Firenze, la città di Renzi, ha esteso via via l'indagine, visto che Ercole Incalza da 7 governi e con la sua struttura di missione che sta nella segreteria del ministro è il vero capo di che cosa? Dell'attuazione della legge obiettivo, quella che abbiamo da 14 anni per le opere pubbliche. Telefonate per rispondere ad alcune domande. Secondo voi Lupi si deve dimettere? La mia opinione, per quello che vale, l'ho già detto in televisione ieri sera, penso che se il PD fosse all'opposizione, Lupi ministro di Berlusconi, Lupi l'avrebbe chiesto le dimissioni da parte del PD seduta stante. Poi se il PD adesso cambia idea, non lo so, non per i reati ma per una questione di opportunità, perché il problema di Ercole Incalza era noto a chiunque si occupasse di infrastruttura, quindi per favore non scendessero dal pero, perché c'è una letteratura accumulata sull'argomento e non a caso le opposizioni avevano chiesto mesi fa al ministro di rispondere, lui aveva difeso Incalza a spada tratta, e questa è una questione. Seconda questione su cui mi interessano le vostre opinioni: come si risponde alla solita storia, la storia dell'Expo, la storia del MOSE, la storia dei cantieri TAV, la storia dell'intera rete che si occupa di tutta la legge obiettivo, visto che di questo si occupa l'indagine di Firenze, solo con i magistrati, pene più pesanti? Pensate che la via giudiziaria sia quella che serve? Se, certo, serve a fare pulizia, ma è la risposta? Oppure c'è un problema relativo al fatto che noi abbiamo in 15 anni cambiato per 620 volte il testo unico degli appalti con 54 diversi interventi legislativi, e che quindi abbiamo così bizantine che alla fine i politici, che non le capiscono, dipendono per forza da altri dirigenti pubblici che sono quelli maghi nel magheggio di girare tra le pieghe delle norme, di fare quel po' che ai politici serve per mettersi la medaglietta e di piazzare imprese proprie, come faceva Incalza, con propri parenti in ogni cantiere, grande cantiere, facendo centinaia di migliaia di euro per questo, e questo è il focus dell'indagine. Però la mia opinione, non so la vostra, è che se noi non disboschiamo tutte queste norme impossibili e bizantine, ci sarà qualcuno che rappresenterà sempre la chiave per il ministro in carica e per le imprese che vogliono lavorare, per dire: beh, se vuoi passare la chiave ce l'ho io, e naturalmente in cambio si paga qualche cosa. Questa è la mia opinione, ma sono interessato per capire la vostra. E poi terza questione, quella su cui vogliamo andare in questa trasmissione per rendere una trasmissione di servizio e non per darvi opinioni in più sulle indagini, quelle le trovate sui giornali di oggi, e vedremo alla fine quali saranno le vostre opinioni. E resta il fatto che noi abbiamo dei numeri che testimoniano che in questo paese abbiamo una gravissima malattia. La legge obiettivo 15 anni fa prometteva interventi e cantieri per oltre quasi 280 miliardi di euro ai valori attuali. Irrealizzati, come ha trovato sul Sole, si è fatta la ricerca del nuovo rapporto che c'è stato sull'avanzamento della legge obiettivo, ebbene, erano al 2014 23,8 miliardi, l'8%. In compenso, rispetto alle stime iniziali dei costi, i costi erano lievitati del 40%. Non c'è un altro paese europeo in cui i sovraccosti sono in questa dimensione per le grandi opere pubbliche, in cui il ritardo è di queste dimensioni. Quindi c'è una doppia patologia: troppi interessi impropri, opere che non si fanno e che costano l'ira di Dio in più. E che se costano l'ira di Dio in più è perché ovviamente quei soldi non sono parametrati né a un'analisi costi-benefici ben fatta all'inizio, né con ogni probabilità, come testimoniano tutte le indagini delle procure in corso, dai costi reali effettivi, perché sono sovraccosti impropri che derivano da provviste oscure delle imprese collusive che realizzano grazie ai risolutori delle norme bizantine i lavori, oppure perché vanno in tasca al dirigente pubblico, e vedremo anche se questa volta a politici, perché i politici le altre volte c'erano anche loro, come avete visto in Veneto, anche se Galan diceva di no e poi è andata diversamente. Allora, come si dà una risposta a questi problemi negli altri paesi? Tentiamo di capirlo. Abbiamo scelto un ospite che si occupa tecnicamente proprio di questo, è un ricercatore del Politecnico di Milano ed è responsabile scientifico di un progetto che tenta di dare una risposta proprio attraverso lo studio comparato e il tentativo di proporre alla politica soluzioni comparate come quelle che altri paesi hanno adottato per fronteggiare i costi impropri, 1, 2, l'analisi costi-beneficio delle opere pubbliche, 3, tempi ragionevoli, 4, evitare la corruzione, perché sono importanti tutte e quattro le cose. Ed è con noi per parlarne Alberto Pavan, che io ringrazio di essere ai nostri microfoni oggi pomeriggio. Buon pomeriggio Alberto. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, la novità, le novità di cui si era in attesa in realtà non sono venute neanche con questo governo, con lo sblocca Italia. Le novità più rilevanti che si potrebbero adottare dalle esperienze degli altri paesi in termini di trasparenza e di efficienza in questo enorme capitolo rappresentato dalle opere pubbliche, quali potrebbero essere? La novità maggiore è quella che, con una brutta parola, si chiama digitalizzazione del settore costruzione, cioè il fatto di poter computare, quindi analizzare tutti i dati di progetto o di qualsiasi altra natura attraverso delle piattaforme comuni dove tutti gli interlocutori vadano a immettere e pescare gli stessi dati e a dialogare. Quindi il fatto di rendere trasparente per tutti gli operatori del mercato rende ovviamente trasparente il mercato stesso e favorisce la qualità dell'opera poi finale. È partito il governo inglese, appalti digitalizzati o BIM come nell'acronimo in cui si usa adesso per fino dal 2016 a cascata. BIM che sta per? Building Information Modeling, cioè modello informativo delle costruzioni. Il dato, le informazioni sono la vera ricchezza del processo e quindi su quello bisogna lavorare tutti assieme a partire dalla committenza. A cascata governo francese, ora governo anche tedesco, quindi ormai siamo accerchiati, siamo rimasti solo noi che abbiamo la piattaforma più bella secondo me, perché poi Novance è la piattaforma digitale più bella che in questo momento ci sia sul mercato, però pur avendola siamo gli unici a non usarla. Ecco. Perché siamo gli unici a non usarla? Perché probabilmente la trasparenza fa paura da un lato e soprattutto la digitalizzazione di un settore molto arretrato spaventa anche gli operatori, cioè il governo non può poi pensare di buttarla sul mercato. L'1% di laureati nel settore, il 98% delle imprese con 1,5 addetti, gli studi di architettura. Però aspetti un secondo, il 98% del settore ha imprese nane, come sta dicendo, e abbiamo anche registrato una moria pazzesca in questi anni di crisi. Ricordiamo che siamo in presenza di una diminuzione del valore aggiunto delle costruzioni, il PIL in questi anni nell'orbita del 50%. Ma detto tutto questo, poi ad aggiudicarsi i megalotti dei cantieri sono in realtà non troppe imprese fin troppo note. Il problema è proprio quello, nel senso che se tu poi non permetti a nessuno di emergere e a allargare la platea di queste imprese che possono concorrere, poi è ovvio che ci saranno sempre solo quelle e che potranno strutturarsi o non strutturarsi, magari si strutturano benissimo all'estero perché all'estero competono con i grandi e poi in Italia magari non sono così attente come poi all'estero. Ma perché? Perché in Italia non c'è un concorrente suo pari o i concorrenti sono pochi. Ma è un rapporto collusivo? Ma non so se è collusivo o può darsi che sia collusivo il fatto che la poca trasparenza aiuta soprattutto la committenza in questo caso, e quindi aiuta l'amministratore pubblico, perché poi chi ci rimette in realtà è anche il sistema economico, e chi ci guadagna è solo poi l'amministratore, no? Il sistema economico non ha poi grandi vantaggi da questo, perché non migliora, non può andare all'estero strutturato, all'estero rischia sempre di perdere, perché ce ne sono 3-4 di italiane che possono gareggiare all'estero, il resto non fa fatica perché le altre sono molto più grandi. C'è tutto il sistema, ma compresa la nostra progettazione. Ecco, qui tocchiamo un punto delicato. Le diverse fasi della nostra progettazione secondo il testo unico attuale vigente, quindi dal progetto di massima al progetto esecutivo, con tutti i passaggi che poi sono previsti in ambito di conferenza di servizio, con la voice, a tutti gli interessi territoriali concomitanti, la possibilità di impugnativa a ogni grado, eccetera, eccetera, fino al problema delle non solo costi delle varianti d'opera, ma degli oneri accessori, che vengono giustificati come i due grandi motivi del fatto che poi i costi lievitano rispetto alle altre legislazioni dei nostri grandi altri paesi concorrenti europei. Tutta questa spiegazione che viene data di solito torna davvero vedendo i sovraccosti e i tempi, oppure in realtà c'è un problema di qualità dei progetti, di incapacità spesso anche rilevata ex post di sapere fare una analisi costi-benefici ex ante? Abbiamo pagato 500 milioni di euro in arbitrati in cui il difetto stava nella progettazione nel 2010, e non sono pochi. No. Ci mettiamo su 10 anni di un'opera pubblica media, 7,5 vengono usati per la progettazione e le approvazioni, e poi perdiamo perché i progetti non sono, e 2,5 per la costruzione, e poi perdiamo perché i progetti non sono poi effettivamente esecutivi. Quindi c'è un grosso problema di progettazione. Il grosso sta lì. La progettazione non è allo stesso livello a cui la vorrebbe la legge, ma anche perché la legge dalla Merloni si è inventata che dall'anno dopo i progettisti fossero tutti diversi da quello che erano, che sono sempre stati, e questo non è possibile. Devi rivoluzionare anche il sistema universitario, devi dar modo che questa benedetta digitalizzazione entri nei corsi di laurea, perché poi anche qui dovremmo poi sfornare ingegneri e architetti che sappiano gestire queste macchine, che sono molto complesse. Cioè la macchina è sempre più complessa, e lo studio di architettura è fatto da una persona, due persone, con un fatturato medio di 17.000 euro, non hanno neanche i soldi per comprare le licenze dei software. Non è pensabile. Quindi non ci sono problemi solo di opacità derivanti dalle resistenze a dare trasparenza, c'è un problema proprio anche tecnico-professionale in tutto il settore. Sì, è anche il settore che gli stessi nostri consigli nazionali dovrebbero rendersi conto che il problema non è più la parcella, ma quelli degli ordini professionali. Gli ordini professionali, sì, i consigli nazionali dei nostri ordini dovrebbero rendersi conto che il problema non è più la parcella, come la calcolo, se mi tolgono i minimi o quant'altro, ma come faccio io a dare un vero supporto alla mia professionalità, come faccio io a creare delle piattaforme su cui questi giovani ingegneri e architetti possano lavorare assieme, crescere, creare dei grandi studi di ingegneria. Senta, io le faccio una domanda un po' tagliente. Sì. Nella mia esperienza, quando uno fa le ricerche, verifica, a fronte di così tante indagini penali su turbative d'aste, oneri impropri collegati a costi di realizzazione di opere pubbliche, sovraccosti, varianti e così via, cioè sono tonnellate di indagini con migliaia di indagati in questi anni in Italia, sì. I provvedimenti assunti dagli ordini professionali nei confronti delle figure senza delle quali, senza il cui apporto tutto questo non starebbe in piedi, cioè ingegneri, architetti, eccetera, eccetera, sono praticamente pressoché inesistenti. Come mai? Siamo sempre qui, purtroppo si mira a proteggere il professionista e non una professione. purtroppo. Capito, però adesso non voglio fare paragoni impropri, ma stiamo sempre parlando purtroppo di illegalità. È come la mafia. La mafia non potrebbe aver fatto, ma no, non potrebbe essersi evoluta nel tempo attraverso meccanismi così sofisticati di riciclaggio e reinvestimento se non ci fossero i tecnici di economia, finanza, banca che la supportino. Eppure anche in quel caso noi non abbiamo praticamente mai esempi di interventi degli ordini a favore, contro chi consente alle grandi reti criminali di farlo. La stessa cosa credo che debba valere nell'ambito delle opere pubbliche, e non per dimenticare la responsabilità dei politici o degli altri dirigenti pubblici che fanno affari loro, ma perché senza queste figure professionali non potrebbero farlo, o comunque sarebbe molto più complicato. Adesso abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade e poi torniamo con il nostro ospite e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora, c'è anche chi invece dice che i nove governi hanno ragione, che coglione sono io, e del resto devo riportarlo perché è l'unico a pensarla così. Evidentemente gli sta simpatico in calza e crede che le nostre opere pubbliche siano perfette, oppure che sia l'ennesimo complotto dei magistrati e che non esiste invece il mangia mangia sulle opere pubbliche. Io non la penso così, però detto tutto questo, maggioranza di opinioni per le dimissioni di Lupi è anche molto peggio, e molte considerazioni sul fatto che è una tendenza che va avanti da molti decenni, difficile da cambiare, quindi condivisione sul fatto che ci sia una responsabilità non solo dei politici, dei dirigenti pubblici, ma insomma diffusa, ecco, negli ambienti privati, professionali, le imprese di settore e così via. Sentiamo un po' di opinioni telefoniche. Ugo da Fermo, prego Ugo. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie per... Prego, per... dica. ...disponibilità. E io volevo dire questo banalmente, che questi signori che fanno appunto queste, che corrompono, sono corruttori, ma soprattutto i pubblici funzionari, politici in generale, voglio dire tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, bisogna colpirli. Non è l'anno di carcere in più, l'anno in meno, i 5 anni, 7 anni, cosa facciamo? Bisogna colpirli nei soldi. Loro fanno questo per i soldi, allora io Stato, io cittadino italiano, ti tolgo tutto. Questo signore in calza in 30 anni, quanti soldi ha preso da noi cittadini? Allora gli dobbiamo togliere tutto. Quindi dice sanzioni monetarie e patrimoniali proporzionate al... No, chiaro. Ma io me ne frego di fare 5 anni di carcere quando ho rubato centinaia e centinaia, decine di milioni di euro. Capisco perfettamente, e può essere un'idea quella di sanzioni patrimoniali più elevate. Come si fa per i mafiosi oggi, come fanno? Esatto, dove scattano le confische. Sentiamo Davide da Catanzaro, prego Davide. Sì, mi sente? Sì, di vada. Buonasera, grazie di avermi chiamato. No, io volevo ricordare, condivido la telefonata precedente, poi volevo dire, il nostro ministro Renzi, io l'ho nominato per Cantone. Sì, il super magistrato anticorruzione. Esatto, però tuttora, nonostante quelle parole, le promesse, premesso sono un elettore di destra che ha votato il 5 Stelle, voglio fare questa piccola postilla. Certo. Però nonostante tutto questo, troviamo ancora queste stesse persone da 30 anni che continuano a mangiare sulle nostre spalle, e apprezzo molto la telefonata di prima, te la ripetere, dobbiamo punirli anche sul portafoglio, perché questi domani, con le lungaggini burocratiche, tra pochi mesi finirà tutto una bolla di sapone, il ministro Muti sarà sempre lì e noi continueremo a pagare, a subire... E a pagare i sovraccosti che poi escono dalle nostre tasche, perché questi sono soldi pubblici. Sergio da Torino, prego Sergio. Buonasera. Dunque, rapidamente, la legge sugli appalti. La legge sugli appalti non è complicata, è molto semplice. È fatta per far sì che matematicamente ogni commissione possa fare quello che vuole. Ah, appunto. Questo chi è nel settore, chi è un tecnico lo sa. In Italia non c'è un solo appalto dove non si possa utilizzare la discrezionalità a piacere. Numero due, progettisti. E questo va da, diciamo così, dalla tecnica dei ribassi a quella dei sovraccosti. Ma per carità. Numero due, progettisti. Bisognerebbe farsi delle domande quando le gare di progettazione vengono assegnate dal 70 all'85% di ribassi. Chi ha uno studio di progettazione sa che è impossibile, certo. Impossibile. Ci sono appalti dove bisogna consegnare 5, 6, 7 mila tavole, il cui costo medio è 1.000 euro a tavola. Quando si consegnano 7.000 tavole vuol dire 7 milioni di euro di costi. Come si fa a prendere un appalto invece a 2 milioni di euro con 70-80% di ribasso? È l'inizio di ogni tipo di costruzione. Certo. Ma questo non c'è bisogno di fare nessuna indagine, basta leggere e saperlo. I risultati degli appalti. Esattamente. Grazie anche a Sergio. Massimo a Firenze, bravissimo, in pochi secondi. Eccomi, grazie Oscar. Io la domanda la faccio proprio a lei, in quanto sono d'accordo con lei per le dimissioni di Vuti. Sì. Però non riesco a capire, anzi non riesco a capire lei, come mai non sia anche d'accordo per le dimissioni di Renzi con due processi in corso di cui uno è risultato innocente. Cioè, perché non perché sapeva? Innocente. Sì, sì, perché no, non sapeva. Ma perché? No, non sapeva, non ha le capacità psicologiche. Per valutare, conosco quella sentenza. No, qui il problema, e devo chiudere in tre secondi, è che la gravità è avere confermato in calza e averlo difeso. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.